dite, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh? Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Basta! Ma sta male! Mamma mia! Non so, a me è una cosa che mi mette di buon umore. Ma no, cioè, me lo sento continuamente. Sì, cioè, vado a casa continuamente, vado a dormire e devo sentire prima l'urlo di Benzo. Devo sentire prima l'urlo di Benzo. Una volta tu, prima di andare a dormire, mi ricordo quando eri una persona normale. Sì, normale. Ero, ti sentivi, lo sai benissimo, sì. Il bestemmiatore, sì, di Verona. Sì, vabbè, d'accordo. Che, mettendoti a ridere volta, con. Ma la prossima, dite una volta. Una volta. Due. Comunque va bene, d'accordo, volta. È divertente. Come era Mosconi, eri fisso su Mosconi. Ma no, ma sentivo anche i comizi di Borghezio che facevano molto ridere. I comizi di Borghezio, anche questo è vero, sì, eri appassionato, sì, dei comizi di Borghezio, sì. Però poi basta, che ascolti una volta, due, no? Certi immigrati, come faceva il signor Mario Borghezio? La Lega per prima aveva individuato in Viale Jenner un covo di islamici cornuti e bastardi, cito a memoria, chiedo no, scusa, certo, che andavano cacciati a calci del sedere, solo la Lega! Poi batteva così sul tavolo. Ma che roba è? Ma questo era razzismo. Si può dire però finalmente che quello è razzismo puro o no? Io lo dicevo già 10 anni fa. No, mi piace non capisco perché cornuti poi. Sì. Cioè, non c'entra se vuoi. Poi se, anche la primogenitura rivendicava. La Lega per prima aveva individuato in Viale Jenner un covo di islamici, bada, cornuti e bastardi. Cioè, ma tu ti rendi conto della volgarità? Cioè, ti rendi conto di cosa abbiamo tollerato, Marione, per anni? Marione, dove sei finito? Dove sei finito? Lì in Europa, per fortuna. Dove sei? No, non è prova dell'Europa. Circondato dai giudici. Beh, certo, con razzismo imperante, ormai, ti credo. Ormai circondato dai giudici che ti hanno reso muto. Ti hanno reso ormai muto ed eunuco. Sono moderati un cazzo. Eccolo là, vedi. Questo è Borghezio antico, però del 2000, degli anni 2000, sì, dell'inizio, sì, anni, sì, 2000, capito? Questo si rivolgeva a Casini, a quelli, sì, dell'UDC all'epoca, sì, al governo. Sono moderati, sì. Moderati, sì, un cazzo! Ciao Marione. Detto con, diciamo, il massimo, sì, rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera, eccetera, religiose, civili, sacre, eccetera, non conta un cazzo. Qui eravamo, me lo ricordo ancora quando ho detto, qui eravamo a Strasburgo, bravo, secondo bravo, me, in trasferta, bravo, a Strasburgo. Vedo che ricordi tutto. Che ricordo tutto. A proposito di Lega, allora, sì, Salvini continua a insistere, si tratta di una colonizzazione, sì, no, organizzata e da finanziata. Chi? Ma da chi? Cioè, ci sarebbe un grande progetto internazionale, anche nazionale, capitanato da Boldrini, eccetera, eccetera, per finanziare, cioè per portare in Italia più immigrati possibile, cioè, che poi magari votano per il PD o per altri, sì, voteranno nel futuro. È incredibile, che qualcuno, beh, ci possa credere. Può essere anche vero, perché chi l'ha detto che non è così? Chi l'ha detto? Chi l'ha detto che non è così? Potrebbe anche essere, che ne sai, un grande progetto per portare sempre più immigrati in Italia. Ma che progetto? Mi scappano, sì, dalla fame e dalla guerra. Dai, intanto l'abbiamo detto. Aspetta, dai. Non sono migranti, sono occupanti. Questi sono occupanti, questa non è un'emergenza, questa è una colonizzazione organizzata e finanziata. Vabbè, tanto l'abbiamo detto, no? Incredibile. Allora, c'è però la cosa curiosa è che ieri sera credo che fosse come al solito dalla vostra parte, quindi allora stava a Sandino, naturalmente, no? Sì. Siamo Salvini. Qualche trasmissione di quel tipo lì. Allora, Salvini con un immigrato, colonna. Con un immigrato. Cosa è successo? Credo del Bangladesh, quale capo degli immigrati o comunque rappresentante della comunità comunità del Bangladesh, dice a un certo punto che le badanti del Bangladesh subiscono, e forse non solo del Bangladesh, le violenze sessuali dei datori di lavoro. Dei vecchi maiali. No, ma risaputo. Ma no, risaputo. Quei vecchi porci. Nord Italia. Ma no, quei vecchi porci. Molti dei quali votano la Lega. Ma non è vero. Abbandonati dalle famiglie, quindi nelle mani delle badanti. Tastano come faceva Mozart il sedere non alle cameriere ma alle loro badanti, forti della loro superiorità e del fatto che le pagano. Ma è normale purtroppo che succedano cose simili, è facile, sì. Ma la verità, i badanti immigrati, le femmine, ogni giorno subiscono la violenza dentro casa del datore di lavoro, che per paura del lavoro non può denunciare, non può bere anche rinnovo del permesso. I datori di lavoro italiani violentano le disponibilità. Non ci mancherai, torna pure, prendi la barchetta e torna dove vuoi. La verità. Bello che Salvini risponde una vecchia frase prosperiniana del mitico Prosperini: prendi la barchetta e torna a casa. In lombardo sarebbe chapel camel, chapel barchetta, no, quello via. Quello è il camel, è un'altra cosa. Chapel camel, no, Prosperini diceva chapel camel, chapel barchetta via, fuori di bal. Che gente. Senti, insiste, dice stuprate da milioni di italiani. Ma ragazzi, però questa è una buffonata, sì, dai, sì. Questa è una boiata, dai. Ma chi? Dai pure ragione a questo che dice che le badanti sono molestate dagli italiani. Questi migranti sono esasperati da questo clima che c'è. Ma tu come ti sentiresti? Ma come ti sentiresti a essere ogni giorno rappresentato così in televisione con un Poletti di turno? C'è sempre qualcuno che urla in queste trasmissioni. Sempre qualche cittadino che urla: via, andate a prescindere, chi deve andare via? Accendi in qualunque ora del giorno. Prima via, gli italiani! Prima gli italiani! Italiani rubano il lavoro, violentano le nostre. Andate via! Ma andate dove via? Questi qua dove cosa vuol dire andate via? Senti. Le donne immigrate, la verità, delle donne immigrate subiscono violenza dentro mura dei datori di lavoro. Che lì è vera violenza. Favore, Salvini, è questa la verità. Sì, cioè, i datori di lavoro italiani Salvini violentano. Ormai conosciamo, dai. Ragazzi, questa è una notizione comunque, su cui vale la pena. Vale la pena comunque approfondire, vale la pena vedere le cose veramente come stanno. Allora, questo signore del Bangladesh, adesso andremo a individuare, questo signore della comunità del Bangladesh sostiene che ci sono milioni di italiani che violentano. Adesso violentano, mai, no, però che molestano. Tu hai detto loro... porci del nord, uomini porci del nord, sì, elettori, sì, della molti, Lega, sì, sì. Che toccano il culo o mettono le mani, non so dove. No, ho detto il sedere, beh, magari, che allungano la manina, la manina morta. Manina nei confronti questi della vecchi, badante. Vecchi che fanno la manina, schifosi, vecchi. Hai aggiunto, uno che tocca il sedere così gratis, senza il consenso. Magari col consenso lo fa. Ma quale consenso? Comunque, la notizia del giorno è un'altra, se mi permetti. Dimmi. Il 2 dicembre, venerdì, io non sarò presente, c'è? Purtroppo perché siamo in diretta alla radio. Il 2 dicembre, sì, la signora Marina Ripa di Meana, sì, presenta il suo libro Colazione al Grand Hotel, in, sì, cui racconta i suoi trascorsi anche con il professor Moravia. Sì, cioè, dimmi un episodio chiave. Raccontami un episodio chiave. Qua, l'episodio, no, ce l'ho io l'episodio chiave, te lo racconto, te lo racconto un po' chiave. No, non ce l'ho qua. Allora, avete presente la signora Marina Ripa di Meana, no? E avete presente uno scrittore molto famoso, già morto da tantissimi anni, che si chiama Alberto Moravia, con cui la signora Maria di Baiana ha intrattenuto una relazione. Allora, Alberto venne sempre subito a casa mia. Alberto venne subito a casa mia, ci sedemmo sul divanetto e mentre, ecco, io gli spiegavo i guai in cui si era cacciato Schifano. Schifano era un famoso artista, anche lui, bravo, deceduto causa droga, se non sbaglio. Lui, senza tanti complimenti, cioè il Moravia, mi prese una mano e se l'appoggiò sulla patta, dicendomi: Marina, senti quanto è duro. Questo sono signor Moravia, Moravia, di cui a voi non ve ne fregherà un cazzo. E nemmeno a me. La noia è un grandissimo libro. D'accordo, però la gente noia che ci ascolta non gliene frega niente, non sa manco chi è Moravia, non sa nemmeno chi è Moravia. E diciamo. Moravia? E come Moravia? No? E Moravia? Pasolini. Ah, Allora, sentiamo queste le solite voci su che è questo ticchettare? Sono io perché sono nervoso perché mi è arrivato qui in redazione un libro. Aspetta, voci da Verbania sì. Contro gli immigrati. Senti che cosa farebbero. E Parenzo frigge, senti. Un mio cliente mi ha confermato che la figlia è stata avvicinata da tre sempre migranti, non si sa bene di dove, e hanno tentato di toccarla, di avvicinarla e di si masturbavano e tutto quanto. Vabbè, adesso ragazzi, per carità, ancora. Ma che perché? Qua abbiamo 54 ragazzoni di 20-30 anni palestrati che ci importunano, non scappano dalla guerra, arrivano dal Senegal come quelli che hanno abusato delle donne qui da noi, ma che profughi sono? Ma ci state prendendo in giro? Basta! Vergogna! Eccola dietro il coro. Ecco il coretto là dietro. Che ti ho detto io? Vergogna! A prescindere. Qualunque cosa succeda. Vergogna, ladri! Prima gli italiani, ladri, andate via! È il Veneto, al Veneto! Non no, vogliamo. Quella è barbaria, non c'entra niente. Quello uguale. Non vogliamo i migranti. Non vogliamo negretti, via. Se è vero che invece di profughi sono in realtà gente in piena forma, palestrati, col telefonino. Ancora l'iPad, i wifi che richiedono a disposizione. Il wifi ce l'ha chiunque. Non sembra, no, è vero, non ce l'ha chiunque il wifi. È sbagliato. Nel mondo tuo ce l'ha chiunque il wifi. Ma non è vero il wifi. Ma quale mio? Un telefonino ce l'ha chiunque ormai. Il telefonino ce l'hanno tutti. Avere il telefonino? Dipende che tipo di telefonino è. Hanno anche il telefonino. Mangiano. Lo smartphone. Sbarcati a Lampedusa. Mangiano. Dice sì, perché mangiano? Gli abbiamo dato pure la frutta. Dice come la frutta? Sì, certo la frutta, devono sguardare la frutta. Hanno mangiato la carne. Loro mangiano la carne. Tanti italiani no. Ma non vi vergognate. No. Ma che non vi vergognate a dire queste robe. Fermo tu. Vai a pisciare, non devi andare a pisciare. No. Sono andato prima. Ed ora Donald Traffico. Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta La Zanzara. Luciani, sei proprio una testa di cazzo. Stavo ascoltando la diretta con le cuffiette. Richard Benson lì mi ha spaccato i timpani. Adesso vi faccio causa a te e a Benson. Allora ragazzi, sul referendum cosa c'è da dire? Meno ne parliamo meglio è, perché mi sono già rotto le scatole. Mancano pochi giorni per fortuna alla fine di questo, questo delirio. C'è da dire qualcosa sul come Berlusca. Voterai tu alla fine? Non si lo so, adesso deciderò, la settimana prossima lo dirò. Berlusconi, è la prima volta che sono incerto, lo sai, per un sacco di motivi, poi ti spiegherò. Berlusconi che dice che si è pentito di quello che ha detto sulle aziende, perché ha paura di danneggiare, il fatto di averla detta, paura che lo danneggi. Dai, su, prima dici che hanno paura e per paura votano sì, i dirigenti, Mediaset, non so chi altro, e poi dice no, mi sono pentito di quello che ho detto. Ma che vuol dire? Ho letto sui giornali che c'è stato un atteggiamento di questa azienda che non mi sembra, ma insomma, è il rischio sul referendum che l'azienda abbia un'idea diversa da lei. Guardi, io che fa, lei? Stamattina no. ho letto i giornali e mi sono pentito di quello che avevo detto ieri, ma io ieri, tutti possono vedere come ho risposto, si può vedere in rete, alla domanda del dottor Vespa. Mi sono scritto proprio questo, che io ho fatto riferimento a quello che è il fisiologico timore delle aziende, soprattutto le aziende sottoposte a una concessione governativa come la televisione, delle possibili iniziative di chi è al potere. Allora, la Santanchè dice che Briatore non sa un cazzo della riforma e ha paura come imprenditore. Non sa nulla, zero. Signor Briatore, amico suo, senti. Ci siamo confrontati e ho capito una cosa, che Flavio Briatore sulla riforma costituzionale, e lui stesso l'ammette, non sa praticamente niente. Il suo è un altro tipo di voto, perché vota per Renzi. Ha paura facendo, voglio dire, l'imprenditore, finanze e quant'altro, ha paura di quello che succederà sui mercati. Non sa nemmeno cos'è la riforma, zero. Santa che... Vi assicuro, è stato qua da me in questo ufficio dove sono adesso un'ora e chiedendole, facendo alcune domande sulla riforma costituzionale, mi ha detto: Daniela, ma io non so neanche cos'è la riforma costituzionale. Non so nemmeno che cos'è. Vabbè ragazzi, dove andiamo? Andiamo. Franco da Milano, vai Franco. Frank, dimmi. Sì, buonasera. Ah no, devo dire un'altra cosa. Sì. Trovo ridicola questa cosa, veramente una vergogna, che alla fine Capalbio sia stata sottratta, cioè sia stata liberata dalla dal possibile arrivo di profughi. Sì, cioè ragione, il prefetto di Grosseto ha depennato Capalbio. A meno che non ce ne fossero già Capalbio, cioè già. Non credo. Ci sono state polemiche questa estate. Devo capire bene se ce n'erano già e quindi hanno tolto Capalbio, non possono andare i profughi. Ecco, allora se è così, lo giustificheranno tecnicamente. La realtà è che siccome a Capalbio c'è stata una rivolta da parte dei ricchi che vivono e hanno ricco, le vive, nessuno ricco, quelli che abitano lì, benestanti, ricchi, chiamali come vuoi, non vogliono i profughi in mezzo ai coglioni. Anch'io sono di vacanza a Capalbio, tutto bene. Anch'io per moltissimi anni, che c'entra? Allora, la gente non vuole i profughi in mezzo ai coglioni. Ma e la dunque... gente adesso non è periodo di ma cose, chiunque di non vuole, ma mica restano solo due mesi. Non vogliono i profughi in mezzo ai coglioni perché magari deprezzano il territorio, deprezzano le case. Hanno sbagliato anche loro. Io non mica problema. In mezzo ai ricchi dovrebbero andare i profughi, in particolare quando sono ricchi di sinistra. I miei amici di Capalbio. Perché devi dire così? In particolare quando sono ricchi di sinistra, si beccassero i profughi in mezzo alle balle a Capalbio. Ma comunque il problema non è quello. Il problema è che quando il prefetto ordina, parola meravigliosa dello Stato, il prefetto ordina, bellissimo, e allora tu devi eseguire. Il comune avrebbe dovuto eseguire. Allora, dove andiamo? Franco, Milano, vai. Eccomi qua. Dimmi. Chiedo scusa, non vorrei aver capito male, perché sono entrato in macchina ho acceso la radio. Giustamente hai acceso la radio sulla sì. Sì, certo. E ho sentito che parlavate di un esponente degli emigrati del Bangladesh che dice che molti italiani, addirittura milioni di italiani, addirittura toccherebbero il sedere, o comunque violenterebbero le badanti... Non è quello che mi ha sconvolto, ma cosa? Quello che ha risposto il nostro Parenzo, il eccolo quale qua. Si è scagliato, eccolo che è arrivato. Dice... Sui porci vecchietti, eccolo qua. Che toccano, eccolo, schifosi, eccolo qua, Franco, il primo della giornata. Eccolo. Schifosi. Allora, ho delle statistiche che gli dicono: tu hai una badante del Bangladesh che toccano, oppure uno schifoso razzista nei confronti dei vecchietti italiani. Bravo, ha ragione Franco, hai ragione che Parenzo ha detto una minchiata. Minchiata solenne, ma ne dice tante. Eccolo qua, Franco, il professor Franco. Lui professor della Franco. Sinistra caviar, lui caviale, è un superiore, Gauche caviale, si è un chiama. Uomo superiore. Liberté, égalité et jet privé. Questo se ben mi ricordo, liberté, perché égalité e jet privé. Vi seguo da molti anni. Sì, ecco, Lui disse che era al liceo classico, occupazione, sì, liceo, Franco, fermo là. Facevo le occupazioni con i compagni e le compagne, certo. Franco, fermo là. Franco. Topio, mi so bene, te confermo. Siamo tutti alcolizzati. E la ragione Toscani, non è il mio problema, però. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni, Mix 24, in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche. Anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Il segnale orario vi è offerto da... Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. www.axerta.it. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta La Zanzara. regione Campania per bloccare questo sindaco, questo Parenzo che vuol fare il sindaco. No, lo devi fermare, Peppino, bloccalo. Lui è la sua maggioranza silenziosa, dei cialtroni fancazzisti. Bloccali tutti, elimina Parenzo, eliminalo fisicamente. Un abbraccio. Ma chi era questo, Davide? Chi era? Fortissimo, il presidente De Luca era. Certi personaggetti. Ragazzi, allora vi dico subito una cosa. Anche su Rai 3 parlano di feci. Sì, ho visto ieri. Amico, che oggi, che ieri. Quella era sempre il solito di martedì sulla 7, che non c'entra niente. Che ha fatto il Lumino nei cinema, sì, meraviglioso. Poi ne parliamo. Ne parliamo dopo. Allora, Rai 3, il professor Giancarlo Coletti dell'Università di Bologna, sì, lavora presso l'ospedale di Imola, che si mette a parlare dell'intestino pigro. L'intestino. Vabbè, che sei fissi, ti piace questo? No, ma senti quello che dice. Se il prodotto è duro e devi spingere sulla pancia, allora sei stitico. Ma cos'è sto rumore di sottofondo che sento? No, sono i miei anelli. Sento un rumore di sottofondo. No, io non sento nulla. Allora, se il prodotto è duro, sarebbe la merda, la cacca, no? Abbiamo capito. Dire, no, non c'è bisogno di spiegare sempre tutto. Senti. Ci sono alcune cose che rimangono intese, no? Francamente non mi pare una cosa volgare. Ma dico, non c'è bisogno di spiegarlo. Cioè, vabbè, non capito. No, anche nelle relazioni, per dei i duri da comprendonio, capito? Per i duri da comprendonio. Ma non c'è bisogno di spiegare tutto sempre. C'è qualcosa che rimane. Sempre dettagli. Nell'aria. Cioè, anche se uno va in bagno una volta ogni due giorni, non è ancora stitichezza. Il segnale è il fatto di dover far fatica, cioè dover spingere molto sulla pancia, quello che si chiama il ponzamento in termine tecnico, e il fatto di emettere un prodotto estremamente duro, difficile da espellere. Allora, a quel punto lì uno deve considerarsi una persona stitica e cominciare a farsi delle domande. Questo è importante, questo è buono, questo è importante. Cioè, praticamente non è una grande scoperta. Se c'è grande difficoltà nell'evacuazione e il prodotto è duro, dice il professor, mi segnalano Caletti, vabbè. Rai 3, il professor Caletti, Rai 3. Bisogna porsi delle domande, cioè si è stitici. Senti, bisogna praticamente cagare sempre alle stesse ore. Beh, non credo che abbia detto così. Sì, come no? Ma no, cagare proprio così non bisogna, mantenere la fascia oraria praticamente. Mantenere, importante già, questo, già diverso. Cioè, la zanzara c'è sempre una certa, come le trasmissioni radiofoniche praticamente, no? Vanno sempre in onda alla stessa ora. Sì, non puoi spostare perché sennò la gente non sa. Non si abitua, è anche il tuo corpo, diciamo, dovrebbe evacuare sempre alla stessa ora. Esatto, infatti è così. Quindi uno deve cercare, se possibile, di identificare una fascia oraria. Quale fascia oraria utile? Qual è? Mattino o subito dopo pranzo? Perché il colon fisiologicamente tende ad avere più energia in quelle due fasi. Dopo il pranzo, anche perché lo stomaco dà un riflesso gastrocolico. Importante questo, è importante sottolineare che il colon ha più energia, questo non lo sapevo, ha più energia la mattina e dopo pranzo. Dunque, ragazzi miei, se dovete cagare la mattina, io non lo faccio quasi mai la mattina, e dopo pranzo ogni tanto sì. Tu, Parenzo, invece sei specializzato la mattina, da quello che ho, se non ho capito. Guarda, male, è un'informazione che tu ritieni importante che io fondamentale. Ma l'hai detta ai più nostri volte? Radioascoltatori? Anche tu più volte lo hai detto. Sono dei bambini all'ascolto, magari non vorrei. Beh, che bambini, sì, che c'è, bambini che però parla. Sì, generalmente io sono per evacui la mattina. Ma tu lo sapevi che poi il colon, faccio la doccia. Lo sapevi che il colon ha una sua personalità? Una sua? Personalità. In che senso? Un suo carattere. Ascolta, c'è sempre qualcosa da capire, da apprendere. Reprimenda dello stimolo, cioè uno tende a mandarlo indietro, ed è esattamente come se uno prendesse le lancette del proprio orologio e le mandasse indietro, poi dopo alla fine della giornata di lavoro pretendesse che l'orologio ricominciasse a funzionare correttamente. Il nostro colon ha una memoria, diciamo che ha anche una sua personalità, cioè comanda abbastanza lui, quindi bisogna trattarlo con estrema gentilezza. Quindi trattenere l'inizio del problema. Sì. lo trovo meraviglioso, meraviglioso. Allora, devo dirti, Davide, che mi stanno chiamando una marea di persone, e mi stanno inviando le schede elettorali. E ci sono persone che chiameranno stasera, spero, che mi hanno promesso che avrebbero chiamato stasera. E votando in diretta, praticamente, cioè compilando la scheda elettorale, se dichiarano quello che votano, certo, dichiarando quello che votano, un reato. Non è vero, quindi noi non è vero. Aggiungeremo questa sera alla lunga lista di procedimenti aperti verso le procure di quasi tutta Italia. Sì, non manca niente. Accenderemo, come dire, un nuovo caso giudiziario. No, allora, dicendo, ragazzi, allora chiamate, devi essere conscio. Chiamate dall'estero, sì, ma verrà commesso un reato. No, qui non è vero. Devi nel momento. Cari ascoltatori, alle 19:40 qui verrà commesso un reato. Allora io ci sto. Se facciamo come Pannella, che diceva: ma qui che c'è la droga. Qui c'è la questo droga. È per dimostrare. Io ve la vendo, la non droga. A Piazza di Spagna, no? Quando col panetto così in mano diceva: perché la libertà, il diritto. E quelli dicevano: dai, c'è la droga. No, nel 1942 noi e quelli: droga. Ragazzi, molte persone chiamano dall'estero e ci diranno: ecco qui la scheda elettorale, sto votando in questo momento e imbusto e mando al consolato. In quel momento si consumerà qui a Radio 24. Ma no, non c'è nessun reato. Questo è per dimostrare la procura, per dimostrare la buffonata, l'enorme buffonata del voto all'estero. Ma scusa, qual è la buffonata? È ovvio che le schede arrivino prima. No, ma è una buffa, è tutto, ma è ovvio che il voto all'estero venga fatto qualche giorno prima. È senza controllo. Lo dice la legge, lo dice la legge. Aspetta un attimo, e io aspetto quello che vuoi, però. Signore del Bangladesh. Poverino, cosa ha fatto? Quello dell'associazione. Bravissimo, Bangladesh, sono grandi lavoratori, per quelli del Bangladesh. Pronto? Signor Nur Alam? Sì. Sì, buonasera, qui Radio 24, la disturbo? No, dica. Salve, buonasera. Lei è presidente dell'associazione Dunkatu? Qualcuno dice sì. Beh, qualcuno dice. Anche ironico, straordinario. Bravissimo, bravissimo. Bangladesh, no? Giusto? Beh, realmente noi lavoriamo per immigrati, sì, maggioranza sudasiatica. Senta, lei ha detto una cosa incredibile ieri sera, praticamente. Ha detto che moltissimi uomini italiani, vecchi, immagino, ma non solo vecchi, commettono violenza sessuale nei confronti delle badanti. Sì, sì, non solo questo. Conferma? Solo... Conferma? Certo, confermo, non solo questo. Ma come avviene questa cosa? Con toccatine oppure con altre cose? Beh, adesso, come avviene praticamente questa violenza sessuale? Allora, dentro mura, cioè di come si chiama, rimprovano, come si chiama, molestica, eccetera, eccetera, poi anche tante volte finisce proprio anche proprio con violenza. Ah, finisce con la violenza sessuale vera e propria? Sì, io non soltanto, attenzione, non soltanto per, come si chiama, lavoro domestica, ho ultimo notizia che le ragazze, le studentesse, immigrati, che comunque, diciamo, ospitato dentro casa, il cambio, danno mano ai... bambini, come si dice questo tipo di lavoro? Ah, no? Le badanti, sempre uguale, babysitter. No, noi possiamo dire babysitter, attenzione. Allora che succede? Che succede a queste ragazze? Proprio, come si chiama, questo tipo di violenza subisce proprio da chi? Dai padri dei bambini? Non ho capito perché devi credere a quei miserabili padani che chiamano dicendo cose razziste e non puoi credere all'ottimo Bangladesh, all'ottimo Siddique Nur Alam, ottimo, Siddique Nur Alam, ma veramente Siddique solo, perché non denunciano? Non denunciano per perdere il posto, per paura perdere il posto di lavoro, certo. Proprio come perdere il lavoro, più un'altra vergogna verso la comunità. Questa è la verità, dobbiamo capire anche. Tu sei islamico? Tu essere islamico? Ma perché essere islamico? Io parlando di non solo islamico, però cultura sudasiatica, dobbiamo capire. Sudasiatici. Vabbè, ma che succede concretamente? Queste cose qua che sono? Delle molestie così battute oppure veramente. Cioè, No, finisce proprio l'ultimo rapporto proprio con Suma. Queste rimane proprio, come si chiama? Citti non parlano per paura della famiglia origine. Ma come dire, finiscono proprio con la violenza fisica, proprio che se le fanno. Sì. Ma questi molestatori, che lei sappia, spesso votano per la Lega, questi molestatori anziani? Dico, questi molestatori sono del nord, soprattutto della Lega, anziani. Prima di tutto qui non c'è del nord né del sud, né di anziani né dei giovani. Però dico la situazione. Beh, le badanti stanno coi vecchi, no? Le badanti stanno coi vecchi. Sì, sì. Dunque, sono questi vecchi porci, come ha detto Parenzo, che mettono le mani sul culo di queste qua, o no? Vecchi porci, sicuro? Che ne so, io così dico. Questo, allora, se metteva solo mano a culo, forse non è che un reato. Ma come non è un reato? Come non è un reato mettere le mani al culo? Ma rispondo perché non è reato. Ma come non è reato mettere le mani al culo, Parenzo? Lo vedi chi stai difendendo? No, Cassazione italiana ha detto per. Il pacco al culo non è un reato, Cassazione italiana. Ma che c'è? Ma amico mio, però ma vedi, conosce la legge. Sì, d'accordo. Il signore, cioè, caro signore del Bangladesh, caro signore della legge, bravo. Questo è una, allora tu puoi mettere le mani al culo. Puoi mettere le mani al culo e non è reato. No, e questa è una sentenza per Cassazione. Ma non è vero, italiana. Ma non è vero. Però è colto, è colto. Ma dai, dice pure è dai, capito? È dai, è colto. Aspetta che ti richiamiamo, fermo, Siddique, fermo che sei numero uno, aspetta. Siddique Nur Alam. Anche a Coatzacoalcos, Messico, in uscita dal lavoro si ascolta la Zanzara. Siamo al top. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Gamma Suzuki 4x4 All Grip, a partire da 13.900 euro. Suzuki. La Zanzara. Cruciani, tutti con questi cazzo di due mesi di astinenza. Ma tu secondo me stai in astinenza da una vita. Chi cazzo ti tocca? Se fossi una donna neanche con un bastone appuntito ti toccherei, coglione. Allora ragazzi, siamo in collegamento con un signore che è del Bangladesh, che si chiama Siddique Nur Alam, presidente di un'associazione che, se non sbaglio, caro Siddique, siete quelli che vi siete messi a pregare di fronte al Colosseo, giusto o sbaglio? Sì. Bravo, ottimo. Avete fatto quella specie di buffonata, secondo me, di pregare davanti al Colosseo, bello, perché non vi danno gli spazi, non giusto, vi danno gli spazi. Fino a, il diritto, allora, dovete far valere i vostri diritti, bravi. Non è che davanti al Colosseo. Allora, Colosseo, non voglio parlare di questo, però scusami, Siddique. E voglio tornare alla questione fondamentale. Cioè, tu stai denunziando, per chi non lo sapesse, stai denunziando una cosa molto grave: che moltissime donne che tu conosci, evidentemente, giovani, badanti, vecchie, badanti, babysitter, provenienti dal sud-est asiatico, quelle che conosci tu, sono molestate da vecchi o non vecchi porci italiani che toccano il sedere. E non parlo neanche come si chiamano nazionali italiani, di datori di lavoro. Beh, datori di lavoro, saranno italiani, la maggior parte, datori di lavoro, immagino, in Italia saranno italiani. Non è che con una nazionalità, porci datori di lavoro. Non porci datori di lavoro, bravo, porci, bravo di che cosa? Allora, no, però no, stai dicendo un'altra cosa, è una denuncia gravissima. Che secondo me non, ci sarà qualche caso, ma non è che sono tutti quanti, cioè, come dici tu, milioni di italiani, ho sentito milioni di italiani, no, un che, po' di malvissuti che molestano, dai, maialotti, si dica, maialotti malvissuti, tutti così sono i datori di lavoro, tutti porci sono, no, datori di lavoro, quelli che hanno la badante, oh. Che tutti porci o non porci non lo so, però io ho visto per queste vicende che qualcuno ha denunciato, ha reclamato proprio badante dentro mura, dentro poi mura. Hanno rotto matrimonio, del vero matrimonio, e poi la signora hanno incassato, lasciato la famiglia. C'è anche questa testimonianza. Ma non ho capito, scusa, che è successo? Che testimonianza? Allora, Da quanti anni sta in Italia? Si dica. Io sono quasi 25 anni. Amico mio, ma come cazzo parli? Cercate. Noi immigrati siamo un po' di ignoranti anche della natura, perché quando abbiamo piccolo non abbiamo potuto mangiare bene, perciò mancanza cibi non è cresciuto il cervello. Italiani deve capire. Ti preoccupare, Siddique, perché in questa trasmissione chiamano certi analfabeti che tu al confronto sei laureato a Yale e a Berkeley. No, ma anche, non lascia perdere. Al confronto. Però scusami. C'è gente che non parla l'italiano ed è italiana. Ma che c'è? Lui a confronto è uno statista, è Berkeley. Ma era una battuta, Siddique, scusami un attimo, era una battuta. Io voglio capire una cosa, hai detto che toccare il culo non è un reato. Questo significa che nella tua cultura toccare il culo è una... mia cultura, scusa, questa è una sentenza della... Ma lascia perdere le sentenze. Hai detto che toccare al culo, toccare il culo, questa è una sentenza. Ma lascia perdere la sentenza, ma scusa, ma secondo te davvero toccare il culo a una donna non è reato? E questo non è un reato, però Cassazione Italiana hanno fatto questa Cassazione sentenza. Italiana. Cassazione Italiana, essere Cassazione Italiana, dai, su. Come no, dai, perché non fai una ricerca in Google? Scusa, in Google, sì, scusami, si dica, io voglio capire una cosa. Per te la donna che esce nuda per strada un po'... Con no, le donne italiane vanno troppo nude in giro per strada? No, secondo me no, perché per cosa della nude dipende il discorso della il logo, perché stessa, diciamo, una persona può entrare in un mare con una bikini. Vabbè, al mare stessa... lo sappiamo. Perciò di capire perché, un'attenzione, c'è troppa pornografia in giro, cioè le donne che vanno in giro un po' con la minigonna sono un po', attirano un po' gli stupratori, se la cercano un po' o no? Secondo me, allora, discorso questo, se diciamo che uno va con minigonna vuol dire provoca con qualche maschio, significa allora ogni giorno deve essere un incidente al mare, perché mare no. Vabbè, al mare no, perché sono tutti nudi. Vabbè, comunque si dica. È una denuncia gravissima quella che hai fatto. Una denuncia grave. Devi portare le prove. Devi portare le prove. Le prove di molestie. Gli italiani, dillo, gli italiani sono dei porci. Io non dico, datori di lavoro sono porci. Ma non è vero, io sono pieno di gente che conosco che non ha mai toccato il culo a nessuno. Ma no, ma e neanche sulla signora forse toccato, dai. Vai, ciao, si dica, ciao. Il signor Siddiche Nure Alam. L'ottimo Siddiche, direi io. L'ottimo Siddiche. Maurizio Caserta. Eccola. Ciao, ragazzi. Altro. Eccone un altro qua, secondo me. Comunque. No, niente, no, Davide, non è così. No, allora ragazzi, se chiamate dall'estero dovete fare un altro numero, innanzitutto, è 02-46-52-02-46-52-4525, ripeto, 02-46-52-4525, pronti con le vostre schede elettorali a compilarle in diretta da noi, imbustarle. Subito, 02-46-52-4525, per dimostrare l'enorme buffonaggine di questo voto all'estero, una buffonatina in America. No, ma non è così però. Come no, ammazza. Vai, chi è Maurizio, vai. Ciao ragazzi, innanzitutto volevo complimentarmi con voi perché per la trasmissione che fate. Grazie, andare alla Bocconi, grazie. Per una indicazione di quella che è la vera radio. Vabbè, adesso non esageriamo, dai, Maurizio, su. Grazie molto. Volevo dire all'amico del Bangladesh che esiste anche un altro reato che si chiama la circonvenzione d'incapace, cioè ci sono sicuramente delle badanti, ma al di là della nazionalità, che provocano i datori di lavoro, come dice lui. Ma non c'è dubbio, ma certo. Per farsi sposare. Ma non c'è dubbio. Anche questo è un fenomeno accertato, è vero. È chiaro che ci sono anche dei datori di lavoro che sono magari dei porci, che possono fare delle... Ma questo qua è un pazzo, dai, su. Ma questo è un pazzo, veramente. Ma è un pazzo, ma dai, su. Ma sì, dei datori di lavoro, milioni di italiani che stuperano, ma non è vero. Allora, sì, ragazzi, ci sarà qualcuno che ci prova. E naturalmente in una posizione di forza, magari quella ci sta, la badante del Bangladesh, esatto. La badante non so che cosa. Ecco. Ci sta in maniera, come dire, consenziente. Non è che uno... Poi, nei casi di violenza vera e propria, che non è la violenza psicologica, è la violenza che uno ti trattiene con la mano e ti stupra, cioè se uno poi ci sta appunto e basta, dai, su. Ma questo non Lazar, sentiamo un altro. Non Lazar, nulla Lazar. Con la chi è Lazar? Ciao Maurizio, Lazar, un tale Lazar da Brescia, non so chi sia. Lazar. Sì, ciao. Allora, tu essere muslim, pure te muslim? Ma perché devi dirgli tu essere, scusami? Muslim, Sheikh Kurshani, muslim. Sì. Sono contento, fiero anche. Ma fiero di essere muslim. Vabbè, a me piace quando lui dice Kurshani. Kurshani è bello. Però perché devi dirgli tu essere? Tu sei. Non perché devi fargli... Ma è più semplice, no? Se ci capisce. Lui capisce perfettamente l'italiano. Lo capisce talmente bene. Lazar, dimmi, dai. Sì, allora quelle trasmissioni del debito, più che altro Quinta Colonna e della vostra parte, e soprattutto Radio Padania. Che quelle succede? Trasmissioni, sì. Praticamente sono delle cari ignoranti razzisti. Ignoranti razzisti, non servono a niente, tranne a seminare l'odio e la rabbia tra la gente. Ma non è vero, seminare l'odio. Sì, c'è sì, qualche piazza collegata in cui dicono fuori, via dall'Italia, fate schifo. Facci caso. Tu lo sai bene, con la telecamera, poi puoi fare tutto, eh? Poi 10 persone puoi farle diventare centinaia di persone. Dopo la vabbè, gente Lazar, ma io non ho capito. Ho sono capito. La gente che non capiscono niente. Dopo la gente si arrabbiano e da lì che nasce il razzismo. Ma da lì che nasce il razzismo. Sono ben integrato qua. E sono, faccio l'analista e... Vabbè, sei ben integrato, lavori, non rubi, non rompi coglione a nessuno, sì, va bene, per carità. Ma io sì, ti rispetto, devi rispettarmi, caro mio. Sono un immigrato, sono uguale, io ti pago le tasse. Ma chi sta dicendo il contrario? Tu lavori, tu lavori, paghi le tasse, non rompi coglione a nessuno, non sei clandestino, sei regolare. Scusami, ma chi ti rompe i coglioni? Ma come si deve sentire lui quando accende la televisione? Ma chi ti rompe i coglioni? Ma chi di insultarmi e ma chi ti insulta? Ma chi ti insulta? Ma non è vero, ma chi ti insulta? Tu lavori, sei regolare, non rompi i coglioni. Dove vivi, scusa? Dove vivi, Cresciani? Vai no. A vedere di ma perché non ho capito? Ma non ho capito, ti insultano, ti insultano per strada, ti insultano per strada? No, nessuno ti insulta per strada. In Italia non c'è razzismo, diciamo la verità. In Italia il razzismo non esiste. In Italia il razzismo è inesistente. In Italia è il paese meno razzista di tutti. Meno razzista di tutti. Allora per fortuna che non esistono delle piccole sacche di razzismo, normale. Adesso, soprattutto questi anni. Va bene, Lazar, ciao. Antonio ci chiama da Nottingham, adesso... fermo. Antonio da Nottingham, Nottingham. Buonasera Cruciani. Vai Antonio, ciao, vai. Grande sindaco Parenzo, buonasera. Saluto a tutti i cittadini di Nottingham. Major, Parenzo. Salute. Major. No, Major di Nottingham, adesso non esageriamo. No, Major no. Di Padova. Ti manca una cosa fondamentale che è la lingua, per cui come a me. Major. Il grande sindaco di Padova. Futuro sindaco di Padova, mentre le elezioni sono praticamente inutili. Perché praticamente ci stai chiamando, sì. Antonio? Hai ricevuto la scheda all'estero per abbiamo votare? Già. Sì, ho ricevuto la scheda e pensavo di votare sì. Ma ce l'hai davanti la scheda? In questo momento no, perché ho appena finito di lavorare. Beh, però vai a casa e prendi sta scheda, che ci chiami senza scheda? È che non faccio in tempo a tornare a casa, perciò. Allora, amico, tu hai ricevuto la scheda, insieme alla scheda che c'era pure? Che c'era pure la pubblicità elettorale del sì? Sì, c'erano, no, non era proprio insieme alla scheda, c'erano altre due buste separate. Con io questo francamente un po' lo trovo scandaloso, sì. Lo sai David? Anch'io. Anche tu lo trovi, sta girando su internet, su web, un video molto famoso, un video che sta diventando, come si dice in gergo, termine orribile, virale. Termine terrificante che non dovremmo usare, di un tizio che protesta molto con Renzi per questa cosa della pubblicità elettorale insieme al... Chiariamo il punto. Sì, ma lo trovo incredibile. Il cioè, taxi Zulu 66 mi costringe ad ascoltarti, scrive Poletti. Vabbè, che vuole, Poletti andrà in qualche luogo, andrai in qualche luogo... Parenzo, ma che vuoi? Parenzo, vai, rappresenti che... la peggiore Italia. Bravo, chi è questo? Dice Poletti. Giustamente, bravo, ha ragione. Che andrà ragione. A sobillare qualche italiano in giro, per l'Italia. Comunque dicevamo questo, facciamo chiarezza, l'amico di Nottingham cosa dice? Gli è arrivata la busta elettorale. E insieme anche la pubblicità del governo Renzi. Non nella stessa busta. È uguale, insieme. No, ragazzi, non è uguale. Ma praticamente lo stesso giorno ti è arrivato Antonio, giusto? Non è uguale. Sì. Poi il problema è che... Due buste separate. Quello è normale, bravo. Quelli ce l'hanno anche quelli del no, basta chiedere al Ministero degli Interni. Non gliel'hanno dati, pare che non gliel'abbiano dati. Non l'hanno mandato allora. Ragazzi, forse perché hanno anche meno soldi da spendere in campagna elettorale. Non lo so. Non credo proprio. Ha ragione Antonio. Il governo, per fare pubblicità al sì, cosa ha fatto? Ha preso... Il governo, il Partito Democratico. Vabbè, quello che... Gli elenchi elettorali delle persone all'estero hanno mandato una lettera. E questo poteva farlo anche il comitato del no, perché gli elenchi sono pubblici. Dati, pare cose. Forse non lo so. Comunque si dice... io lo trovo vergognoso, devo dire la verità. Antonio non voleva ricevere questa pubblicità a casa, non voleva ricevere questa busta, voleva ricevere solo la busta elettorale. Elettore riceve tutta la posta elettorale. No. Comunque tutto questo a prescindere dal fatto che il voto degli italiani all'estero, secondo me, che sono un italiano all'estero, è una grandissima porcheria. Sono d'accordo con lei su questo. Perfettamente vabbè, d'accordo. Antonio, io volevo che tu votassi davanti, pensavo che tu votassi davanti a me, invece no, non voti davanti a me. Proprio fisicamente non lo posso fare. Vabbè, allora, porta la scheda, facci così, porta la scheda domani al lavoro e domani ti richiamiamo, ciao. Sì, va bene, ciao. A Cruciani, ma non è che stai andando verso la demenza senile? La zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, Mario da Firenze, vai Mario, vai. Vai Mario. Ciao Cruciani. Dimmi, dimmi. Eccomi qua. Vai. No, volevo parlare con Parenzo sugli immigrati, molto velocemente. Perché Parenzo mi deve spiegare se è un giornalista o un opinionista. Vabbè, questo lascia perdere, dai, queste distinzioni, che non gliene frega niente a nessuno, dai, perché forza. Se sei un giornalista ti basi sui fatti. E allora? Se sei un opinionista apri la bocca e dai aria. E mi sta no, bene. Guardi, mi allora, occupo sia di fatti che di opinioni. Quale sarebbe il fatto mal raccontato, caro professore? Quale sarebbe? C'è uno studio della Fondazione IUM sì. che spiega tranquillamente perché la situazione della gente verso i migranti è negativa. La situazione? Perché in Italia delinquono 7 volte a 1. Vuol dire che per un delitto commesso dagli italiani ce ne sono 7 commessi dai migranti. E quindi cosa c'entra questo col tema dei rifugiati, col tema dell'integrazione? L'atteggiamento degli italiani nei confronti degli immigrati è un atteggiamento negativo, perché ci sono anche questi dati, cioè delinquono 7 volte in più degli italiani. Sicuramente nelle carceri italiane ci finiscono di più gli immigrati. Non è solo, sono i delitti commessi. Prima parlavi di senegalesi. Allora? Allora, qui io qua sono in Toscana, è pieno di senegalesi, ti assicuro che non sono partiti, sono dei bei ragazzoni, e se non sono rifugiati. Mm. Allora, se mi parli di rifugiati. Beh, magari sono regolari, però, magari sono regolari, Mario. Cioè, ma dove? Ma non lo so, ma magari dove? Sono regolari. Non sono... Se non sono regolari, per me dovrebbero andare fuori dai coglioni. Cioè, mi pare chiara Bravo. La cosa. Secondo quello problema, che penso io, non ma non lo penso perché io sono di rifugiati. Destra. Io penso che chi non ha il Vabbè, diritto questo, di stare da un punto qui, di vista generale, da un punto di vista giusto. Della legge. Dopo di che punto di vista della legge, tu li puoi rimandare via, come dici tu, soltanto se hai firmato degli accordi bilaterali con gli stati. Non vi piace la legge, non vi piace ma lo la sappiamo. Legge, allora fate, stufa, dite stupide. Mi fa capire, ma scusi, nella sua infinita intelligenza, mi fa capire qual è il suo mondo ideale? Cioè quello, se io non ho un accordo con il Senegal e carico su un aereo tutti i senegalesi e violo le acque territoriali del Senegal e atterro nell'aeroporto della capitale del Senegal con il mio carico di senegalesi, che cosa succede? No, perché questo è il punto. Fermi tutti, che Mario, non lo puoi fare. Fermi tutti. Mario, ciao, ho capito tutto. Cosa dice? Ho capito tutto, Mario. Lores Vicenza, vai. Lores. Oh, mamma mia, quest'altro. Buonasera, Cruciani. Lei. Allora, io sono testimone di una violenza di una signora del Bangladesh, di 35 anni. Pensa a te, sì. Un amico distintissimo di famiglia. Sì. 91 anni sì. aveva questa signora del Bangladesh. Certo. Allora lo derubava lui per non compromettere i rapporti con i figli, che siccome sono lontani stava zitto, finché una notte si è accorto che aveva rubato molto anche dei gioielli. Lui è quella del Bangladesh, la badante. Esatto, del Bangladesh. Sì, esatto. Allora? Sì. Una signora molto volgarotta, anche molto sì, volgarotta. È fine lei invece, ecco, invece è fine la Lores. Infatti si stupivano come mai questo signore avesse una, purtroppo Vabbè. Siamo ridotti così. Siamo ridotti allora così. Cosa succede? Lui è fine lei, sta parlando la regina d'Inghilterra. Ha preteso di avere indietro gioielli, soldi, che sia, perché lui scrive: ok, lei ha fatto una sceneggiata, ha telefonato alla figlia dicendo che questo signore era entrato nella sua camera di notte per violentare, cioè, si è inventato tutto, esatto, l'ha molestata. Intanto lei si è andata via con gioielli, con i soldi, naturalmente la testimonianza di Lores. Questa è la violenza delle signore del Bangladesh: rubano, delinquono. Vabbè, e dopo dicono di essere state molestate. Vabbè, adesso non sarà sempre così. Sono tutte delle vacche. come delle vacche, vacche, vacche. No, vacche, dai, basta. Questa signora qua è fine. Cruciani. Molto fine sta signora qua. Ti saluto. Sì, meglio. Lores, scusa, meglio, però. Meglio. Scusami, Lores, sì. Non puoi dire sono tutte vacche queste qua, dai. La maggior parte, dai. Senti, Cruciani, io ti dico una cosa. Ho avuto mia mamma 12 anni a letto paralizzata. Abbiamo subito i furti, molesti. Però perché non mi prendete le italiane, aspetta, allora? Se non le vuoi, perché non ti prendono l'italiana? Perché non prendo? Aspetta un attimo. Dimmi. Ma chi cazzo di italiana vuoi che vada a lavorare per da 1000 lei. Euro al mese? A casa della quando Lores, ha poi. Una casa qui. Ma quelle, chi ci va? Giusto? Chi è che ci viene da lei a lavorare? Ma i padri di mia mamma prendevano 1000 euro al mese più vitto, alloggio, contributi e tutto. Ma a casa sua, suo marito che faceva il muratore prendeva 250 euro. Loro ne mandavano 1000 a casa, diventavano 4000, cazzo! E beh, allora? E allora? Si rifacevano le case e allora? Loro in 6-7 anni. E dov'è il problema? E dunque? Qua con 1000 euro che cazzo fai? E vabbè, allora che c'entra questo? Allora, aspetta un attimo. Ma già il fatto di andare a lavorare a casa sua è un inferno. Aspetta, Lores, cioè 1000 euro non sono sufficienti per lavorare in un contesto come quello di casa sua. La persona che sta parlando possiede un passaporto che io ho visto fisicamente. Repubblica Veneta. Lores, passaporto Parenzo, è una specie di carta di credito, Repubblica Veneta, il numero di serie A0096, passaporto della Repubblica Veneta, passaporto della Repubblica Veneta, fermi tutti. La Zanzara. Lo studio osservazionale. Nei paesi senza bidet, come la Francia, il tasso delle mutande sgommate di merda aumenta in maniera vertiginosa. Allora ragazzi, direi di procedere con Michele da Latina. Michele da Latina, caro Parenzo, vai. Che ambientino, ragazzi, vai, che Michele, ambientino. Vai. Eccoci. Dimmi. No, volevo ringraziarvi per il grande servizio comunicativo che fate, cioè, perché adesso che avete spiegato che le ragazze del Bangladesh si fanno importunare dai vecchi maiali, sì, no, lo abbiamo spiegato noi, ha detto il signore lì. Qualche caso c'è sicuro. Ho deciso di licenziare la mia albanese e prendere una del Bangladesh. Beh, ottimo direi, no? Cioè, siccome tu vorresti toccare il culo alla tua badante... Esatto, ma voglio dire, avete fatto una... notizia importante, queste qua non dicono niente perché si vergognano, non gli tocca il culo, non dicono nulla, ma è una cosa meravigliosa. Volevo ringraziarvi per la notizia e niente, domani mi toccherà licenziare l'albanese. Un altro maiale. Ottimo, perché è un maiale, dai, maiale. A parte che sta scherzando chiaramente, no? Dai. Sì, Marco sì. Milano, vai, ciao Michele, Marco Milano, vai. Sì, ciao Beppe. Dimmi. Scusa, allora, volevo sapere prima cosa se per caso sabato avevi violato i tuoi 2 mesi di astinenza lì con la biondina che avevi di fianco. Vabbè, io avevo un sacco di persone, accanto, tra cui anche una con i capelli neri. Tra cui anche una persona con i capelli neri. Vabbè, Marco, vai avanti, dai, forza. No, senti, volevo parlare con quel personaggio lì di fianco a te, no? Sì. Che dice sempre che lui paga la sanità. Che non è di fianco, ma si trova a Roma, non è di fianco. Sarai sotto, sarai sopra, non lo so, Parenzo, dove sei. Comunque, dovresti finirla, perché tu chiaramente sei un rinomato pezzente, straccione, quindi dichiarerai 3.000 euro di tasse all'anno, quindi tu puoi pagare... Veramente non è così, comunque. Questo veramente gatto, non è così. Vabbè, allora, Marco, allora? A un gatto. No, allora la deve finire ogni volta di dire questa cosa, perché non è vero, lui non paga la sanità a nessuno, ne pago molto più io di sanità rispetto a lui, non è che mi faccia molto piacere. Quanto paga lei di tasse all'anno? Quanto molto paga lei di tasse? Parenzo, molto vita, perché tu sei un incapiente, quindi non puoi pagare tasse. Come fai a pagare tasse? Beh, non a me non mi magari fosse, però non è così. No, tu sei un incapiente, quindi devi Marco, finire, io non ho capito una cosa. Tu hai chiamato per dire esattamente cosa? Niente, perché no, è disturbato. Parenzo, la deve finire ogni volta che gli dicono di portarti a casa, che lui paga la sanità agli altri, di io non paga niente a nessuno, perché è uno straccione, è un pezzetto. Vale, non allora è così, mettiamo che io sia talmente poche che non servono per pagare la sanità. Che io, mettiamo che io sia uno straccione, mettiamo così, benissimo. Certo, certo. Quello che a me, e chiedo scusa per l'utilizzo di questa parola, quello che a me fa rodere il culo è il fatto che questo signore qua che sta parlando, Marco, ad esempio, il signor Marco da Milano, usufruisce dei servizi dello Stato, in particolare del servizio di disintossicazione, in particolare la disintossicazione, essendo notoriamente un tossico. e un ubriacone come denota la telefonata. Io, caro parente, sono ma attino, non si direbbe, non si direbbe. No, ma io sono sobrissimo. Ciao, si Marco, direbbe. Ciao Marco, ciao ciao. Allora, caro David, nei giorni scorsi mi ha molto colpito la storia di uno studente di 17 anni che è stato sospeso per avere creato un mercato nero delle merendine, in pratica. E credo che la cosa sia avvenuta a Moncalieri, sia Moncalieri. Allora, questo ragazzo andrebbe premiato invece, cioè andrebbe esaltato come un grande modello imprenditoriale. D'altra parte, che cosa faceva questo signore? Praticamente comprava le merendine a costi bassi nei supermercati vicini e le rivendeva dentro la scuola a un prezzo inferiore a quello della distribuzione scolastica all'interno, delle macchinette, eccetera. E ha fatto un po' di quattrini, pochi naturalmente. Un genio assoluto. Invece lo hanno sospeso perché l'hanno scoperto fare questo tratto. Sospeso per la seconda volta. Allora, noi ci siamo procurati i numeri di telefono di casa di questo signore. Ci siamo messi d'accordo col padre che chiamavamo più o meno a quest'ora. Adesso chiamiamo, risponderà il padre sicuramente perché il ragazzo ha 17 anni. Vediamo, ha detto che ce lo passa, eh? Vai. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Lei è il padre di Leo? Sì, sì, sono io. Salve, buonasera. Qui la Zanzara, buongiorno. Come sta? Come sta? Ah, bene, bene, tutto bene. Ma è un po' arrabbiato per questa storia di suo figlio, sì o no? Ma all'inizio un po' di più, adesso un po' meno, insomma, dipende da cosa si vuol valorizzare, ecco. E lei è contento che suo figlio, io lo considero un genio assoluto, faccia questo mercato di merendine comprandole a un prezzo inferiore e rivendendole a un prezzo inferiore a quello che fa la scuola? È contento di questo colpo di genio oppure no? Della sua inventiva di marketing, sì, fa capire che un ragazzo sveglio, degno figlio di suo padre. Pure, lei che fa di mestiere, scusi? No, io sono un semplice operaio. È contento di questa genialità di suo figlio però? L'ha rimproverato, però, non l'ha contento, rimproverato, mi dica la verità. Se nella vita bisogna anche sapere che ci sono le regole e bisogna anche rispettarle, ecco. Poi per carità. Ecco l'anima parenziana. L'anima parenziana. Bravo, bravo. L'anima parenziana. Beh, ci passi il suo giovane Marchionne, va? Il giovane Marchionne che è lì in casa. No, niente di tutto questo, non esageriamo. Vabbè, ci passi suo figlio, va? Ok, glielo passo. Arrivederci. Padre. Sì, pronto? Eccoci Leo! Ecco qua. Eccoci qua, come stai? Tutto bene. Ancora sospeso? No, non ancora, perché venerdì sapranno al consiglio di classe quale sarà la mia punizione. Allora, secondo me tu sei un genio assoluto, sei riuscito a guadagnare dei soldi attraverso un'operazione molto semplice. Poi non parliamo di cifre, in tutto quanto sei riuscito a mettere insieme tra l'anno scorso e quest'anno? In tutto, eh? In tutto tra l'anno scorso e quest'anno? Ma guardi, l'anno scorso facevo di pulito, magari 80 al mese, quest'anno magari, conoscendo anche quelli di prima che sono fatti presentare da quelli di secondo, magari arrivavo a 100. 100 al mese, in tutto? Sì. E dunque in tutto quanto hai fatto? Avrei fatto 2-3 mila euro in tutto, diciamo. No, di meno. Di meno. Che ci fai con questi soldi? Questi soldi avevo Le canne, un... no? No, assolutamente. E questi soldi li tenevo da parte per un domani, perché non si sa mai cosa mi può riservare il futuro. Vabbè, adesso non scherziamo, qualche cosa avrai comprato, qualche cosa? Sì, ho comprato solo il telefono e mi facevo le ricariche del telefono. Ah, ecco, appunto. E poi ogni tanto uscivo con gli amici e pagavo io. Allora, cosa però... è molto semplice, l'abbiamo già detta, no? Cioè tu praticamente giocavi sul fatto di andare al supermercato, comprare una serie di merendine. Che cosa compravi esattamente? Allora, ad esempio, compravo i Fonsis, il pacco da 8 multipack, lo pagavo... Sì. Sui 2,50 euro e li vendevo poi a 50 l'uno. Alla macchinetta questi fonti costano 1 euro. Dunque... Anche i Twix, per esempio, io li pagavo quando a prezzo pieno, io li pagavo 35 centesimi l'uno. Sì. E un Twix alla macchinetta costa 1 euro, io li vendevo a 50 l'uno. Beh, un poi quando c'erano le offerte, io consultavo sempre il mio telefono, guardavo le offerte su tutti i volantini, che avevo l'applicazione dedicata. Sì, pure. E poi quando c'erano le offerte, chiaramente ne compravo di più. Cioè, capito? Comprava di più con le offerte. Dunque. Giocava sul prezzo sempre più basso con le offerte. È un piccolo Marchionne, dai, un piccolo Marchionne. È un piccolo Marchionne. Lei, anche lei, ha la residenza in Svizzera per caso? No, chiedo, poi faccio per e chiedere. Rivendeva al chiedo prezzo scusa. Inferiore rispetto scusa, a quello che faceva la scuola, giusto? Sì, che sì, fa sì. La scuola. È un Marchionne, dai, è un Marchionne. E venivano da te direttamente le persone, perché ormai sapevano, no? Sì, venivano sempre da me. E com'è che se ne sono accorti? Quindi ha fatto là? Anche concorrenza sleale da un certo punto di vista. Certo, non facevo guadagnare la scuola, ma guadagnava lui. Meraviglioso. E poi ve la prendete con gli immigrati e con i cinesi? Vergogna. vergogna, perché allora poi non dovete prendervela, se poi il cinesino fuori dalla scuola fa il suo banchetto con i fonzi che costano ancora meno di 50 centesimi. Non dovete, non voglio sentire alla radio trasmissioni di miserabili, cioè, prodotti che urlano. Falsi. Questi non sono falsi, beh, però questi, no, ho capito, qua. Ma il giovanotto, il giovane Marchion, sicuro che non ha residenza in Svizzera lei? No, a Moncalieri, no, di dove Moncalieri. Paga le, dove, Moncalieri, quindi da lì poi fa presto ad andare, Ma no, fa presto a fare il transfrontaliero. Ma insomma, Moncalieri, come l'hanno scoperto? Dai, torniamo a come l'hanno, ti hanno scoperto. Sì, guarda, sì, mi hanno scoperto perché ero entrato con lo zaino a modello esplosivo, tutto bello pieno, che avevo le lattine nello zaino. Vabbè, ma hai esagerato, amico mio, hai fatto il pieno, hai fatto il pieno un giorno, e che è successo? Lei erano le guardie del preside? No, purtroppo mentre giravo il corridoio mi ha visto il vicepreside e mi ha chiesto di aprire lo zaino. È tatanato, vecchio mio. Sì. Comunque, la cosa incredibile che tu hai detto, mi sembra da qualche parte, è che sospendono me e non quelli che spacciano la droga, perché c'è qualcuno che spaccia droga a scuola? Immagino di sì. Sì, ma è pieno di gente. Io adesso non li conosco, però so che è pieno di gente che lo fa. Cioè che spaccia marijuana, addirittura qualcosa di più? Sì. Cioè, pasticche? Com'è quotata lì in quella scuola, la Maria, rispetto a fuori? Non lo so. No, chiedo, che magari se uno si muta su mercati laterali a un certo punto, vedendo come va. Però scusami Leo, tu stai dicendo che nella tua scuola tutti quanti sanno chi, spaccia marijuana, forse anche cocaina, no? Sì, sì, lo sanno tutti, però nessuno parla. Come sì? Lo sanno, lo sai pure tu? No, io non lo so, vabbè, non dico tutti, però la maggior parte, i clienti, perché sicuramente saranno tanti. Cioè si spaccia tanta roba. Sì. Cioè di sì, tutto, sì. Marijuana, cocaina, pasticche. Di tutto, però io non sono un loro cliente. Vabbè, d'accordo, questo lei questo... ha un altro settore, un'altra merce, cioè, vende un'altra lei. Altra roba. E nessuno, dici, se la prende con questi qua. Alla fine hanno scoperto solo me, diciamo, hanno punito solo me. Sì. Allora, la cosa incredibile che è venuta in questi giorni, Parenzo, è che sono arrivate delle proposte di lavoro, cioè per lui. Sì. Beh, certo, sì, ma direttamente ti sono arrivate oppure attraverso la scuola, attraverso la stampa, eccetera? No, direttamente, perché ho creato un altro indirizzo email e mi sono arrivate le offerte di lavoro proprio lì. E chi ti ha chiamato? Chi ti ha cercato? I grandi imprenditori volevano conoscermi e farmi un percorso educativo per eventualmente assumermi un giorno. Cioè, capito, sì, come si fa dumping? Certo, un corso sul dumping, probabilmente, no, sulla concorrenza sleale. Ma se no, vedo, ma dai, ma scusa, c'è il revenditore. Ma tu continuerai a farlo o no? Spiegami. Beh, non è che posso continuare, perché alla fine sono stato sospeso. Adesso non so cosa decideranno. Sono già stato sospeso l'anno scorso, poi bocciato. Non voglio perdere un altro anno. Ah, sei stato pure bocciato? Sei stato? Sì, l'anno scorso sì. Cioè, capito, cioè, amico mio, però metti da studiare, bocciare. Però ha messo l'ingegno, però vabbè, insomma, alla fine ma mi sei uno di quegli esempi che chiari del fatto che la bocciatura a scuola non è che vuol dire qualcosa. No, ma guardi, è stato anche per quello che mi hanno bocciato l'anno scorso. Capito, l'hanno bocciato per la pure soprattutto per quello. Soprattutto per quello, certo. Leo, che vuoi fare nella vita? Nella vita vorrei aprirmi un mio locale e far lavorare comunque. Ah, un locale, famiglia. Vuoi aprire un locale? Sì, sì. Perché nella vita sicuramente non farlo? Avrei prezzi onesti io. Ma è un locale, bravo, di che? No, un locale comunque, un bar magari o nella spiaggia, comunque una piadineria, un qualcosa che posso spiccare senza avere tanta concorrenza sul mercato. C'è un lavoro che sta tornando di moda che si chiama lo spallone. Sono quelle persone che portano i soldi in una busta o in una borsa dall'Italia alla Svizzera. Dai. Si chiama spallone. No, anche no, quello. C'è chi porta i fonzi e chi porta il denaro. Spallone. Ma no, ma non c'entra niente. Questo mica vuole fare il delinquente. No, ma un po' di evasione fiscale l'ha fatta però. Ma non credo proprio. Cioè ha fatto concorrenza sleale all'ufficiale distributore di merendine della scuola. Questo va è quello bene. Che è il quadro. Come va bene? L'ha fatto benissimo. E vabbè. Un genio assoluto. Ciao Leo. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ti hai capito il giochetto fantastico? Io niente di particolare, per carità, però cosa succedeva? Tutti i prezzi più bassi li andava a cercare, prendeva i prodotti, merendine, cioccolata e altre cose, andava a scuola e tutti invece di andare alle macchinette con i prezzi superiori, con i prezzi... No, con i prezzi sì. Fatti dalla scuola. I prezzi fatti dalla scuola, d'accordo con la scuola, evidentemente. E lui li vendeva un prezzo più basso. Genio. Cruciani, mi stanno chiamando in sala operatoria per andare a operare. E c'è la zanzara. E se operassi con le cuffiette? La zanzara. Poi scusa, no? Ma usai zingari, rom, chiamali come te pare, come combustibile per riscaldare i palazzi e le case degli italiani che non arrivano a fine mese? Non è la stessa cosa che metterli nei forni, perché quelle sono caldaie, non so forni, è diverso. E io li sto usando come combustibile, cioè, capito, vado a far pure per bene. Non è la stessa cosa, ripeto. Cruciani, la caccia ai rom continua. Su una cosa ti sbagli, non sono matto. Oka ei, è un buongiorno per morire. Caro Parenzo, questi due andrebbero pizzicati, per questo te li ho messi, eh? Si fanno schifo questi qua. Questi due andrebbero, però andrebbero pizzicati, eh? Andrebbero pizzicati. Andrebbero scoperti. Vanno denunciati, delle andrebbero cose scoperti, scoperti. Il primo soprattutto, il secondo è un matto di Messina. Beh, è un matto di Messina, un matto di Messina che sostiene di andare a caccia di rom. Secondo me non è vero. Insomma, non... Che porcheria. No, ma poi che vuol dire a caccia di rom? Non ho capito. Concretamente, chiami se hai il coraggio. Se hai il coraggio, chiami in diretta, chiami, ci spieghi. Ed ora Zanzarosi, il momento più atteso, il traffico! Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta La Zanzara. Allora ragazzi, alcuni di voi mi scrivono: non dici nulla della moglie di Brunetta. Cari ascoltatori della Zanzara, voi sapete che alcune cose riguardano un mondo che è lontano da quello reale. Cioè, alla gente del fatto che la moglie di Brunetta si sia messa a fare un profilo, a creare un profilo finto su Twitter per attaccare, in alcuni casi anche insultare il governo, non frega assolutamente nulla, niente, sì, no, è zero. Divertente, basta. La storia è divertente. Perché è divertente la storia? La storia è, primo, è divertente perché qualcuno ha pensato, in particolare al quotidiano La Stampa, di iniziare a fare una specie di campagna contro i 5 Stelle, perché pensavano che questo account Twitter, che era di una tale che si chiama Beatrice, non mi ricordo come, fosse orchestrato dalla Casaleggi Associati, insomma dai 5 Stelle, per attaccare il governo, per fare dei troll, insomma, per addirittura con un algoritmo, non so con che processore, eccetera, eccetera. Evidentemente una cazzata, dunque. Totale. Figuraccia da questo punto di vista. Addirittura ci sono state delle interrogazioni parlamentari del PD su questa vicenda qua, no? Per denunciare l'attacco informatico al governo da parte dei 5 Stelle. Seconda cosa, la moglie di Brunetta cosa cazzo fa durante il giorno? Questa è la domanda che vi faccio. Sì, e questo è il punto vero. Cioè, bravo. Il punto vero è questo. Cioè, perché uno può anche non fare niente e godersi la vita. Sì, per no, carità. Certo. Però la domanda che mi faccio è: la moglie di Brunetta, una persona simpaticissima, sicuramente anche molto, molto, no, anche se vogliamo, anche schietta, eccetera, perché si mette a creare un account finto per attaccare il governo? Non ha proprio niente da fare dalla mattina alla sera. Questa è la domanda che mi pongo, la questione che mi pongo. Mi sembra che sia, tra l'altro, anche una professionista affermata, se non sbaglio, non mi ricordo che mestiere fa. Francamente non me ne frega nulla. No, se ma ti nemmeno posso a dire. Me non me ne frega nulla. No, ma non me ne frega niente. Mi domando però questo: una persona che è una affermata professionista nel suo settore, credo, se non sbaglio, perché si dovrebbe mettere a creare un account Twitter finto per attaccare per il governo? Per divertirsi, perché evidentemente non è un cazzo da fare. Questa è la domanda che mi pongo. O comunque hai molto tempo a disposizione. Ecco, vabbè. Stefano da Milano, dai. Stefano. Sì, ecco qua. Dimmi. Niente, io volevo intervenire sul discorso che facevate ieri con Filippo Roma. Sì, e sulle firme false dei 5 Stelle. Delle 5 Stelle, eccetera, eccetera. Sì. Tralasciando la questione che... Beh, io sono, premetto, un elettore 5 Stelle. Sì. Secondo me è una porcheria le firme false. Ma sono comunque una porcheria, per me sono già ridicolo il modo in cui uno si deve presentare attraverso le firme, mi sembra una cosa medievale. Ma lasciamo perdere quella roba là. Esattamente, lasciamo che è perdere porcheria. No, ma in generale la raccolta delle firme mi sembra una roba veramente ridicola, una roba assurda. Bisogna trovare un altro metodo. Ma detto questo, se uno le firme, se uno le firme non fa in tempo e le copia in alcuni casi, che è come falsificarle, in alcuni casi addirittura se le inventa, soprattutto se viene da un movimento che fa della purezza, no, dell'onestà, eccetera, la sua bandiera, poi uno dice perché no, siete troppo accaniti sui 5 Stelle, gli altri partiti ne fanno di tutti i colori. No, ma non c'entra niente. È appunto perché uno si presenta in quel modo che stupisce la cosa, no? Io chiamavo proprio per questo motivo, proprio perché in questa storia tra Filippo Roma e 5 Stelle, sì, io sto con Filippo Roma. Meno male, vedi, sei uno dei pochi, perché quelli li insultano, viene insultato. Da elettore 5 Stelle posso... Secondo me, chi fa questo lavoro come Filippo Roma fa un ottimo lavoro e i 5 Stelle dovrebbero semplicemente ringraziarlo. Io da elettore 5 Stelle lo ringrazio, perché bisogna pulire tutta la politica da chi fa porcherie, che siano firme false, che sia voto di scambio, qualunque cosa. Ragazzi, le firme false le hanno fatte tutti, diciamo la verità, le firme false le hanno fatte tutti. Però tutti, è una cosa che non si deve fare. Non si firme deve fare. Ricopiate da altri elenchi, firme inventate, firme... Perché oggettivamente è così, le hanno fatto tutti, dai. So. Pochi sono stati scoperti, pochi sono stati scoperti. 5 Stelle è un appello che... di cambiare un po' i toni, perché se noi ci troviamo, cioè il problema non è Filippo Roma che fa il servizio, ma se c'è qualcuno dentro al movimento che fa queste porcherie. Va bene Stefano, perché abbiamo capito, grazie. Claudio, cosa volevo dirti, dimmi, al volo. Dimmi, dai. Al volo, tu che sei contrario alle firme all'estero. No, io sono contrario al voto, dell'italiano all'estero. Sì, sono contrario al voto italiano all'estero. Detto. Il voto palese, come dice Parenzo, non è un reato, bensì è una cosa che non si può fare. Però chi fa il voto palese, chi fotografa la tessera, scusami, chi fotografa, esatto, chi fotografa la scheda elettorale comunque commette un reato e la diffonde. Sì, no, perché non è mai stato perseguito, Parenzo, dai. Beh, no, non si può. Dimmi, caro. Dimmi, io sono. Io ho fatto più volte il presidente di seggio. Appunto. Non è tanto fotografare. Succede anche a me, è successo alla vecchietta che non riesce a piegare la scheda ed esce fuori, esatto, con la scheda in mano. Esatto. E quello esatto. Non si può fare. Esatto. Chiunque palesa in qualunque modo il suo voto. Commette un reato. Non commette un reato. Cruciani, non commette un reato. Ma il suo voto è nullo. Ma non è nullo. Quel Vabbè. Voto va annullato. Claudio da Girona. Vai, Claudio. Eccomi qua, allora ho ricevuto la scheda. Girona, Spagna, poco sopra Barcellona, vai. C'è anche un aeroporto. Ho ricevuto la scheda famoso. Pochi giorni fa, pronto? Sì, ti sento, dimmi. Devo votare qua in diretta? Non lo so, fai quello che ti pare, io non istigo a fare nulla. Tu hai davanti la tua scheda elettorale? Sì, è regolare, non è che c'è pubblicità. Ma c'è un timbro sopra, è timbrata. Dici la scheda pro? Sì, credo che debba essere timbrata. Sì, la scheda ha dei timbri. L'hai ricevuto? No, assolutamente no. Vabbè, sarà valida lo stesso, immagino, no? Vabbè, tu ce l'hai ancora dentro la busta? Però, non è che come diceva l'altra sera, signora, che c'è la X sopra la Ma quando mai? Ma quelle sono stronzate. Non siamo nel Burundi, cazzo. Capito che siamo. Ma chi è questo fide personaggio? No, ma questo è uno da Girona che chiama un italiano che è residente lì e ha ricevuto dove la scheda elettorale. Dove risiede questo? Girona, Spagna, poco sopra Barcellona. A Girona. Dove c'è l'aeroporto? Comunque, dove adesso lei sta annunci. Io sto per commettere un reato. Ma non è così. Ma non sto. Ma che reato? Non è reato. Vabbè, scusi, però, dov'è l'anomalia? Io non riesco a capire una cosa, sennò la gente che ascolta non capisce nulla. Allora, sono arrivate le schede per il voto degli italiani all'estero. Benissimo, sì. Sono arrivate in buste chiuse, vidimate dal Ministero degli Interni. Magnifico. A questi qui che abitano all'estero, aprono la busta, sì. Votano, la richiudono e la rispediscono all'indirizzo che è indicato, cioè sì, credo l'ambasciato al Ministero degli Interni. Ma non c'è nulla di segreto, perché infatti... Ora, in tutta questa procedura, che cosa c'è di sbagliato? Non c'è sbagliato. Cioè, alla base, che cosa c'è di sbagliato? C'è il fatto che, come stai osservando, e come è chiaro da moltissime telefonate che mi arrivano e da schede elettorali che mi arrivano, prima di quelli il che voto non è segreto. Non è, ma può non essere segreto. Perché lo dicono sti ma miserabili? Ma può non essere segreto, che c'entra? È molto più facile che non sia segreto. Ma anche tu puoi dirlo quando vai al seggio, esci dal seggio o fotografi quello che hai votato e twitti, dici ho votato. Ma come no, è uguale. Ma sì, ma è un po' diverso, dai, su. È un po' diverso. Poi la manipolazione manipolazione delle schede è molto semplice. Ma la manipolazione semplice, del vostro sai. Cervello bacato. No, la manipolazione delle schede è molto più semplice. Se tu lo metti dentro la busta dove te l'hanno mandata, no, ma questo veramente, se no si dà un messaggio sbagliato. A questo qui, come si chiama questo qui? Claudio. Ecco, sto cavolo di Claudio, che sta a Girona, non si capisce perché. Vabbè, comunque Claudio, vota in questo momento, non vota. Mi dire che cosa vota. Vota, commetti il reato. Comunque guarda che state facendo solo un exit poll, ovvero non c'è niente di ma quale exit poll? Ma scusami, è quello che sto dicendo io, non c'è nulla di scandaloso. Sono d'accordo con te, Parenzo. Vabbè, Claudio, vota. Pensavo di non votare, poi... avete rotto i coglioni voi, ho detto dai. Ma io non me ne frega niente di quello che fa questo vota, mi vado a letto tranquillo stasera. Domani vado a portare i miei figli a scuola. Non me ne frega nulla di quello che fa questo qui. No, voglio dire, ovviamente non mi interessa. Ho altre robe migliori da fare. Scusa, cosa vuol dire questo qui? Che collegamento c'è tra quello che dice Claudio e il fatto che devi portare i figli a scuola? Perché lui mi ha detto: ma abbiamo fatto questo argomento, abbiamo proposto questo argomento. Mi avete stufato, adesso voto. A me non me ne frega niente, fa quello che gli pare. No, per carità, solo siccome Cruciani ieri diceva che sembrava che fosse tutta una farsa, secondo me il voto all'estero è una farsa. Ma perché? Le modalità non mi sembrano le manifoldità. Non siamo in Cambogia, ma no, ma non c'è dubbio, ho detto è una farsa. Vota 5 volte, come beh, succede, può succedere che uno riceve delle schede, ma può succedere che, guarda, è successo in un sacco di posti alle scorse elezioni politiche che comunque era molto facile manipolare il voto all'estero. Sì, che qualcuno fa casino. Ma no, sempre. Ma è così, se uno vuole comprarsi, se uno si vuole comprare 100 voti, riesce a comprarsi 100 voti facilmente. Ma come no? Ma è così, comunque, ragazzi. Questo simpatico Claudio da Girona. Hai votato? Sì, ho votato. Hai messo dentro la busta? No, perché metterò dentro questa busta. Poi hai votato la parte sinistra o la parte destra della scheda? Sinistro o destra? Si può dire sinistro o destra? No, io voto sempre a sinistra. Quindi sempre ho votato sinistra la parte sinistra. Benissimo. Ciao. Così non ci rompo i coglioni. Esatto. YouPorn o Zanzara? YouPorn o Zanzara? YouPorn. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Gamma Suzuki 4x4 All Grip, a partire da 13.900 euro. Suzuki. La Zanzara. Cioè, nel mondo succedono cose importanti e voi qua a parlare di cazzate. Cioè, non lo so. Pensa che, pensa che a Bangkok c'è uno che ha lottato un'ora e mezza con un pitone attaccato all'uccello. Cioè, voi a parlare di queste stronzate. Si sente che non fai sesso e non lo farai per tanto, Crucià, perché stai sempre incazzato nero sti giorni. Fatte una bugnettina almeno. Sì, pippe, come diceva Giuliano, pippe. Amore, ma tu la fai la pipì nella doccia? Sì, anche in vasca quando sto per finire. Siamo al top. Allora, caro Parenzo, sì. Abbiamo tra poco una persona che ci dirà. Ci avviamo alla chiusura, no? Aspetta, oggi no, ma c'è tempo. Allora, ci sarà un grande incontro. Bene. Nei prossimi giorni. E poi ci dirà esattamente la data. La persona che è protagonista di questo incontro si raduneranno 17 operatori dell'occulto. 17? Aspetta. Devi stare tranquillo. 17 operatori. Devi stare molto calmo. Mi sto innervosendo. Già. Devi stare molto tranquillo. 17 sì. Operatori dell'occulto riconosciuti dall'ordine. Non sapevo che esistesse un ordine. Sì. Ben consapevoli del grave pericolo rappresentato dal signor Matteo Renzi. Aspirante alla dittatura più o meno larvata, nell'intento di risparmiare più gravose sciagure al popolo italiano, daranno vita a un possente rituale propiziatorio finalizzato alla sconfitta del predetto Renzi in occasione del nefasto plebiscito da lui fortemente voluto, eccetera eccetera. Questo è l'annuncio. C'è l'annuncio solo una persona viene, che può aver l'annuncio viene cosa, solo uno. Da questa persona qui. Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di vino. Di vino. Se noi diciamo elo, voi rispondete im. Elo. Im. Elo. Im. Mai al mondo verrà la fine. Vino. Ecco. di vino. Mai al mondo. Vi salutiamo e benediciamo da Cervinia, amatissimi figli. Salutiamo e benediciamo in particolare gli ascoltatori della Zanzara. E quanti desiderano collaborare, unirsi agli operatori dell'occulto, sì, per sconfiggere il Duce Puffo nel plebiscito da lui voluto, sì, del 4 dicembre. Beh, nell'interesse dell'Italia, aspetta, della democrazia, aspetta, e della libertà di ciascheduno, prima che sia troppo tardi, troppo tardi, è necessario affrontare a viso, sì, aperto, sì, il chiamare i medici, Duce Puffo, ed annientarlo di, beh, qui all'eternità. Questo sembra Radio, sì, sembra Radio Londra addirittura. Sì, comunque, esatto, Divino, tu ci stai confermando che il 27 di novembre di codesto anno, di codesto mese, cioè novembre, sì, ci sarà presso, credo, la città di Firenze, sulle colline di Firenze, questo possente rituale magico. Sì, possente, aspetta, questo possente rituale insieme a questi altri che tu farai, immagino, insieme ad, bene, altri operatori dell'occulto. Luogo e ora, facciamo, aspetta, una bella retata. Luogo, allora, e ora. Se si, sì, può parlare seriamente, sì, seriamente. I nani malefici, ancorché, sì, prezzolati, banali, sciocchi, sì, e lupinari, parla di me, siano tacciuti. Sì, no, sì, sono tacciuti. Siano tacciuti. Sono tacciuti. Noi, sono... Parla di me, il miserabile. Noi saremo, sì, noi chi? Nei pressi, tu da solo, di Firenze, aspetta, in un sito messo, vabbè, a disposizione da un, sì, affiliato all'ordine. Sì. Sì. Un coglione. E, vabbè, ci sarà naturalmente, come è stato annunciato, a mezzanotte di domenica 27, allora, mezza, l'appuntamento novembre, è mezzanotte, beh, mezzanotte, me lo scrivo così. Un rituale che è stato predisposto da chi? E che ha per scopo primario l'eliminazione dalla scena, sì, politica, sì, del Duce Puffo, in particolare la sua sconfitta sonora, eclatante, sì, quello però decisiva, sì, certo, decisiva soprattutto per le nelle urne, della, diciamo, libertà, però, degli, sì, italiani, vabbè, pazzo, però, domenica, scusa, 27, ma scusa, non, sì, soltanto, aspetta, i Divino, 17 di, operatori, ecco, non appunto, soltanto, non soltanto, cosa succederà? Quali altri malati di mente ci saranno? Tra voi che ci state ascoltando, nessuno, italiani e italiane, non soltanto in Italia, ma, sì, ovunque, certo, nel mondo, come ovunque, desiderate concorrere, ah, ecco, come certamente desiderate, sì, alla difesa della vostra libertà. Beh, adesso non esagerate. Cosa bisogna fare? Del tiranno, sì, in pectore, che e bisogna fare? Servi, nani, certo, ruffiani, ballerine, etruriane, certo. Ebbene, domenica a mezzanotte, sì, ovunque voi siate, che devono fare? Domenica 27, sì, che devono fare? Domenica 27 novembre a mezzanotte, sì, ovunque voi siate, che devono fare questi qua? Procuratevi ciò, cosa, che è facillimo, facilissimo, una immagine, sì, del Duce Puffo. Ecco, questo è importante, sì, aspetta, c'è, sì, di Renzi, sì, e tenete la portata di mano. No, sì, non, sì, e allora? A mezzanotte, sì, deponetela al suolo. Al suolo, malato di mente definitivo. Sull'immagine nefasta del Duce Puffo, cosa? Il vostro piede sinistro. Certo, cioè, stai inventando anche tutto, il aspetta, anche il pavimento va bene di casa? Sì, certo, sì, in, certo, casa, aspetta, fammi sentire, o all'aperto, ciò che conta è che voi siate consapevoli dell'importanza del vostro gesto, delle vostre parole, e che tutti assieme, Tutta l'Italia, tutti, sì, coloro lo che possono, tutti, e, sì, vogliono, contribuiranno in questo modo alla definitiva sconfitta, beh, del Puffo. Questo, quello, dopo sarà il referendum a farlo. Suolo, sì. Naturalmente anche sul pavimento, se siete in casa. Naturalmente, naturalmente. Del naturalmente. Puffo. Ecco, immagine per terra, uno piede sinistro, bianco, piede uno si deve vestire di bianco. Ah, anche di bianco. Vestiti di bianco, ma se siete in casa, ciò, sì, è molto facile. Potete, molto facile, utilizzare, sì, un lenzuolo. Sì. Ecco, sì. Se mi metto un lenzuolo addosso, aspetta, i miei parenti chiamano la polizia, se metto, faccio sto rituale. Fate tacere l'ognomo malefico, ma del vostro studio. È silente, ma non è silente. Questo è pazzo, ragazzi. O ignudi. Sì, no, aspetta. Nudi. Anche no, nudi, aspetta, scusami, Divino, ricapitoliamo perché c'è stata un'interferenza da parte di Parenzo. Allora, praticamente, immagine del Duce, di quello che tu chiami il Duce Puffo, no? Renzi, sì, messa, perfetto, per terra, sì, vestiti di bianco, esatto, oppure anche, credo, con un lenzuolo. Nudi? Ha detto, certo, anche nudi? Anche nudi? Anche nudi? Di bianco, quindi potrete utilizzare anche un drappo, un drappo, lenzuolo, non c'è dubbio. Quello che avete a portata di mano, naturalmente, sì, poi, purché naturalmente il colore sia bianco, in alternativa i nudi. I nudi, poggerete, sì, il piede sinistro sulla nefasta. Ti immagini un napoletano che fa questo rito? Vabbè, andiamo avanti. E a questo punto ripeterete a voce alta. Ecco la formula, aspetta che ve la scrivo. Sette volte consecutive. Sette volte. Sì. Prendete nota, registrate, tu perderai la stolta battaglia contro il popolo italiano il 4 dicembre, Matteo Renzi. Ripetetelo. No, aspetta, ripetiamo bene. Sette volte. No, ripetiamo bene qual è esattamente la dizione. Zitto! Ma questo fammi è un malato di me, ragazzi, è un malato di mente. Che dovrete ripetere Divino, me lo può ripetere da cosa? Soli o anche con altri, ciò è irrilevante. Sì. La frase è la seguente. Sì. Memorizzatela, ecco, scrivetela, siamo pronti, registratela. Sì. Tu perderai la stolta battaglia contro il popolo italiano il 4 dicembre 2016. Oh, Matteo Renzi! Ripetete ciò per sette volte consecutive. Parenzo, facciamo insieme. Sì, allora, per tu, sette volte per te... tu, divino Telma, sei un cretino patentato. Tu, divino Telma, sei un cretino patentato. Non ho mai conosciuto nessuno più stupido di te. Fermo. Stupido. Allora, stupido. Andate a vedere chi è il divino Telma. Ma guardate come si veste. Mi volete? Tu sei un suo leccaculo. Cretino patente. Il mago. Senti il maghetto qui. Senti il mago come si è subito alterato. Il mago. Ma aspetta, divino. Ma non è un linguaggio da mago questo. Cretino patentato. Vai a lavorare, Parenzo. Venditi utile. Divino. Quante braccia sprecate con senti, tutti i lavori divino, che ci sono da fare. Senti divino, perché non prevedi che io tra 30 secondi ti mando a fare il culo? Perché non lo prevedi questo? 30 secondi. Parenzo, allora prevedi questo divino. Aspetta. Benediciamo tutti coloro che il 4 dicembre. Ma vai a farti benedire, non benediciamo. Divino, aspetta, no, divino, scusa. Fammi spiegare. Aspetta, devi stare zitto un attimo. È un idiota. Ha detto semplicemente che Renzi cadrà per il suo rituale, cadrà per il referendum. Somaro d'un somaro. Patenta, cretino patentato. Lui da Valbratta schifosa, rifiuto del genere umano, il mondo stercazzo di vacca. Ma cosa Fottiti dice? Fottiti per sette volte. E se possibile aggiungi. Ma non è un linguaggio da mago. Sega. Ma non è un linguaggio. No. Ma che razza di mago è? Segaiolo di merda. Ha perso le staffe il mago. Divino. Il mago. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. Allora, ragazzi. Ce la faccio, dai, chiudi qua che me ne vado a casa, mi sono stufato. Quel cretino. Ma guarda che è un personaggio pazzesco. Andate a vedere chi è divino, la credibilità di quest'uomo, del cosiddetto divino Telma. Andate a vedere. Poi ha chiuso, ma come si permette di chiudere? Ma come si permette? Però io sarei curioso di capire quali sono questi altri 17 operatori dell'occulto in queste cose. Altri 17 malati di mente. Ma secondo me non esistono. Ma non, secondo me ovvio, non esistono. Ma si trova lui da solo, nudo. Lo lì a Firenze, sulle colline, da solo, nudo. Lo arrestano, leggerai il giorno dopo sui giornali. C'era un signore grasso che girava per le colline di Firenze nudo. Diceva di essere un mago. Lo hanno arrestato. Fine, nelle brevi della cronaca di Firenze finirà. Dai, è evidente. Oh. Non ce la faccio. Paolo da Torino, dai, chiudiamo con Paolo da Torino. Fammi dire Paolo da Torino. Dai. Buono comunque. Bella, sì, questa sera funziona però alla fine, mi pare. Paolo, dai, dimmi. Funziona, dopo le sì, risate che vi siete fatti, torniamo sulla terra. Io vorrei dire solo questo. Che quella era la terra vera, purtroppo era la terra. Purtroppo al signor Parenzo volevo solo dire questo. Sentiamo. Lui ha detto comunità Rom, comunità africane a Padova, dobbiamo sostenere qua e là. Allora io dico questo, il signor Parenzo e tutti quelli che la pensano come lui facciano una cosa, li finanzino loro, non vedo perché io devo pagare le tasse e mantenere questa gente che non la voglio nel mio paese. Tutti quelli che non che devono, cioè, tu vuoi cacciare tutti gli extracomunitari, tutti da cacciare. Ma è ovvio. No, non tutti. Come quelli che si comportano bene, no. No, io sto allora, i Rom, che fare, certo, con i Rom? I Rom se non lavorano se rubano devono andarsene fuori. Ma vabbè, palle, questo chi ruba va in galera, sì. Non è che... Ma non vabbè, è, ma con Parenzo che bisogna fare, Paolo? Che faresti con Parenzo? Signor Parenzo, paghi le tasse. Ma per io le paghi? Che fa, tante ne paga. E con i suoi soldi, l'uno per mille, si mantiene tutte queste belle comunità. Perché non esiste la comunità africana, esiste il popolo italiano, punto e basta. Il popolo italiano che non ne può più. Tant'è vero che se voi guardate la trasmissione su Rete4, ecco, ogni appunto. Sera sulle piazze, giusto, ci sono, sì, ecco, una marea. Ha citato la cosa, appunto. Non è l'Istat quello, però. Esatto, allora, ascolti, no, quando un politico, per dire, però va bene, per carità. Sì, scusate, sì. Quando un politico ogni sera va in televisione, sì, dalla parte sinistra del PD e vede che il popolo sulle piazze, sì, ma non è quello il bobolo. Di loro, quale popolo? Ma di chi parla? Quale popolo? C'è stato un casino sugli immigrati, sì, lo so. Bravissimo, qua a Torino si sono ribellati. Allora noi, ma non si sono ribellati, in realtà, che è successo? Ma perché non te li mantieni tu? Ecco, tu, ecco, ecco, è arrivato. Oggi non era ancora arrivato l'idiota del tienili a casa tua. Ma non li vuole, se Paolo non li vuole mantenere, questi qua non li vuole dare, non vuole contribuire ai 35 euro al giorno, ne ha pieni i coglioni della gente che viene e che viene messa dentro i posti e poi non viene più seguita, non ne può più dell'immigrazione clandestina. Che colpa ne ha? Ha torto? Non ha torto. Poi certo, la piazza del debito non è che sia lista. Vabbè, intanto l'abbiamo detto comunque. Ragazzi, ci sentiamo domani. Ciao. La zanzara logora chi non la fa. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. Libera la voglia di fare.